Supplico, tu che sei il mio angelo, non lasciarmi in mano agli avvoltoi, fai quel che vuoi, ma dammi il tuo amore. Dammi il tuo amore, dammi il tuo amore, dammi il tuo amore, dammi il tuo amore.